L'abbazia di Northanger di Jane Austen. Capitolo primo. Nessuno vedendo Catherine Morland da bambina avrebbe mai immaginato che fosse destinata a diventare un'eroina. La condizione sociale, il carattere del padre e della madre, il suo stesso aspetto, il temperamento, tutto era contro di lei. Il padre era un ecclesiastico, né disprezzato né povero, anzi un uomo grandemente rispettabile, anche se si chiamava Richard. E non era mai stato bello. Aveva una rendita personale notevole, oltre a quella procuratagli da due parrocchie, e non gli passava neppure per la mente di chiudere a chiave le figliole. La madre era una donna pratica, di buon senso e di buon carattere, e, cosa particolarmente rimarchevole, aveva un'ottima salute. Prima di Catherine aveva avuto tre figli e invece di morire nel dare alla luce quest'ultima, come logicamente ci si aspetterebbe, aveva continuato a vivere abbastanza da avere altri sei figli e da crescerli, sempre godendo di ottima salute. Di una famiglia di 10 figli si dice sempre che è una bella famiglia, purché vi siano teste, braccia e gambe in numero proporzionato, ma i Morland non avevano altri motivi per essere definiti così, perché in generale erano piuttosto bruttini. E Catherine per molti anni della sua vita fu bruttina come gli altri. Aveva una figura sottile, impacciata, una carnagione pallida e spenta, capelli scuri e lisci e lineamenti marcati. Questo per ciò che riguarda l'aspetto fisico, ma anche il suo temperamento era ugualmente poco propizio a un destino di eroina. Le piacevano tutti i giochi dei ragazzi e preferiva di gran lunga il cricket, non solo alle bambole, ma ai divertimenti tipici dell'infanzia di ogni eroina, come accudire un ghiro, nutrire un canarino o innaffiare un cespuglio di rose. Per il giardinaggio era proprio negata e se qualche volta raccoglieva dei fiori lo faceva soprattutto per il piacere di disobbedire, almeno questo era ciò che si poteva dedurre dal fatto che preferiva sempre quelli che le era stato proibito di cogliere. Questi erano i suoi gusti. La sua intelligenza era ugualmente fuori dal comune. Non imparava né capiva mai qualcosa prima che le fosse insegnata. E a volte neppure allora, poiché era spesso distratta e qualche volta un po' tarda. La madre impiegò 3 mesi solo per insegnarle a ripetere la preghiera del povero e alla fine la sorella minore Sally riusciva a recitarla meglio di lei. Non che Catherine fosse sempre ottusa, no, no, di certo. Imparò la favola della lepre e i suoi amici con la stessa rapidità di qualsiasi altra ragazzina inglese. La madre voleva che studiasse musica e Catherine era sicura che le sarebbe piaciuto, visto che adorava pasticciare sui tasti di una vecchia spinetta. Così a 8 anni cominciò. Prese lezioni per un anno e poi non ne poté più. E la signora Morland, che non insisteva mai perché le figlie fossero istruite a ogni costo, malgrado la loro incapacità o antipatia per quello che avrebbero dovuto imparare, le consentì di smettere. Il giorno in cui il maestro di musica fu congedato fu uno dei più felici nella vita di Catherine. La sua passione per il disegno non era superiore, anche se ogni volta che riusciva a ottenere dalla madre una lettera con il retro in bianco, o comunque a venire in possesso di un qualsiasi pezzo di carta, si dava un grande affare a disegnare case, alberi, galline, polli, tutti molto simili gli uni agli altri. Il padre le insegnò a scrivere, a far di conto, la madre il francese, ma non trasse particolare profitto da nessuna di queste materie. E ogni volta che poteva si sottraeva alle lezioni. Che ragazza strana e bizzarra. Infatti, malgrado tutti questi segni di dissolutezza, a 10 anni non aveva né un cuore crudele né un cattivo carattere. Era di rado fastidiosa, quasi mai litigiosa e molto gentile verso i più piccoli, tranne qualche sporadica manifestazione di prepotenza. Era inoltre chiassosa e vivace, odiava lavarsi e restare chiusa in casa e niente al mondo le piaceva come rotolarsi giù per il verde pendio dietro casa. Questa era Catherine Morland a 10 anni. A 15 il suo aspetto andava migliorando, incominciò ad arricciarsi i capelli e a desiderare i balli. La carnagione si fece più bella, il viso si addolcì, arrotondandosi e acquistando colore, lo sguardo si fece più vivo e la figura si disegnò meglio. La tendenza alla poca pulizia lasciò il posto all'inclinazione per l'eleganza. e diventando elegante, diventò più pulita. Aveva ora il piacere di sentire a volte il padre e la madre che osservavano questo suo miglioramento fisico. Catherine sta diventando proprio una bella ragazza, oggi è quasi graziosa. Erano parole che coglieva ogni tanto. E quanto erano graditi quei commenti. Essere quasi graziosa è per una ragazza che è stata bruttina per i primi 15 anni della sua vita una conquista che dà una gioia maggiore di quella che possa mai provare chi sia stata una bellezza fin dalla culla. La signora Morland era una gran brava donna e voleva che i suoi figli crescessero nel modo migliore, ma era così tanto occupata a partorire e a fare da maestra ai più piccoli che le figlie maggiori inevitabilmente venivano lasciate a se stesse. E non c'è da meravigliarsi se Catherine, la cui natura non somigliava per niente a quella di un'eroina, a 14 anni preferiva giocare a cricket e a palla, cavalcare e correre per la campagna, piuttosto che leggere dei libri, perlomeno dei libri istruttivi. Infatti, a patto che non contenessero una morale, fossero tutti centrati sulla trama e non sulle riflessioni, non incontravano da parte sua la minima obiezione. Ma dai 15 ai 17 anni iniziò la preparazione necessaria a un'eroina. Lesse tutte quelle opere che le eroine devono leggere perché la loro memoria sia ben fornita di quelle citazioni che sono così utili e così consolanti nelle vicissitudini della loro vita ricca di avvenimenti. Da Pope imparò a biasimare coloro che dan voce allo scherno del dolore. Da Gray che molti fiori sono nati per sbocciare ignoti e sciupare la loro fragranza nell'aria deserta. Da Thompson, quale gradito compito è insegnare alla giovane idea come scoccare. E da Shakespeare ottenne una buona serie di informazioni. Tra l'altro imparò che inezie leggere come l'aria diventano per gli uomini gelosi, prove indiscutibili come testimonianza delle sacre scritture. Che la povera blatta che noi schiacciamo prova nella sofferenza fisica una pena grande quanto quella del gigante che muore, e che una giovane donna innamorata somiglia sempre alla pazienza che su di un monumento sorride al dolore. Fin qui progrediva in modo soddisfacente e sotto molti altri aspetti fece passi da gigante. Infatti, anche se non sapeva scrivere dei sonetti, riusciva a leggerli e anche se non aveva nessuna possibilità di fare andare invisibili un piccolo pubblico suonando al pianoforte un preludio di sua composizione, era però in grado di ascoltare le esecuzioni degli altri con pochissimo sforzo. Il suo vero punto debole era il disegno, era proprio negata, non ne sapeva nemmeno abbastanza da tentare di fare uno schizzo del profilo dell'uomo che amava, così da far scoprire il suo segreto attraverso il disegno. E in questo era miseramente al di sotto di una reale statura eroica. Lei però non si rendeva conto della sua disgrazia perché non aveva un innamorato da ritrarre. Aveva raggiunto l'età di 17 anni senza aver incontrato un giovane amabile capace di far presa sulla sua sensibilità. Non aveva ispirato nessuna autentica passione. E non aveva neppure suscitato ammirazione se non in forma molto modesta e passeggera. Questo era proprio strano. Ma in genere, quello che è strano può essere spiegato quando se ne cerca bene la causa. Non c'era nessun lord nel vicinato, e neppure un baronetto. Non c'era una famiglia di sua conoscenza che avesse allevato e nutrito un bimbo trovato per caso sulla soglia, nessun giovane le cui origini fossero sconosciute. Nessuno era stato affidato alla tutela di suo padre e lo squire del villaggio non aveva figli. Ma quando una giovinetta è destinata a essere un'eroina, la testardaggine di 40 famiglie di vicini non potrà impedirglielo. Prima o poi deve pur succedere qualcosa che metta un eroe sulla sua strada e qualcosa succederà. Al signor Allen, che possedeva buona parte delle terre che circondavano Fullerton, il villaggio del Wiltshire, in cui vivevano i Morland, fu ordinato un soggiorno a Bath per curarsi la gotta e sua moglie, una donna di buon cuore, affezionata alla signorina Morland, che probabilmente aveva capito che se a una giovinetta non capitano avventure nel proprio villaggio deve cercarsele altrove, la invitò ad andare con loro. I signori Molland accettarono con gioia e ancora maggiore fu la gioia di Catherine. Capitolo 2. A quel che abbiamo detto a proposito delle doti fisiche e mentali di Catherine Molland, ora che sta per piombare tra tutte le difficoltà e i pericoli di una permanenza di 6 settimane a Bath, sarà il caso di aggiungere, così che la lettrice sia meglio informata e nell'eventualità che le pagine seguenti manchino di dare un'idea sufficientemente chiara di come va inteso il suo carattere, che Catherine aveva un cuore affettuoso, temperamento allegro e aperto, senza nessuna presunzione o affettazione, che i suoi modi erano da poco cambiati rispetto alla goffaggine e alla timidezza caratteristiche di una bambina, che era di aspetto piacente, e quando era in forma perfino graziosa, e la sua mente era ignorante e sprovveduta, come generalmente si addice alla mente di una giovinetta di 17 anni. Si immaginerà naturalmente che quando si avvicinò l'ora della partenza, l'ansia materna della signora Morland raggiunse il massimo. Mille angosciosi presentimenti su quello che di male sarebbe potuto capitare alla sua amatissima Catherine a causa di questa terribile separazione. Dovevano opprimerle il cuore di tristezza e ridurla in lacrime durante gli ultimi 2 giorni prima della separazione. E è naturale che durante il loro colloquio di addio, nel salottino, dalle sue sagge labbra sgorgassero consigli importanti e appropriati. Ammonimenti contro la violenza di quei nobili e quei baronetti che si divertono a trascinare le signorine in remote cascine sembrerebbero in un momento simile i più adatti a dare sfogo alla piena dei sentimenti di una madre. Chi non la penserebbe così? Ma la signora Morland ne sapeva così poco di lords e di baronetti che non aveva nessunissima idea della loro ampia malvagità e non nutriva il minimo sospetto riguardo ai pericoli che potevano minacciare la sua figliuola a causa delle loro macchinazioni. Le sue raccomandazioni si limitarono perciò ai punti seguenti. Ti prego, Catherine, di coprirti sempre la gola quando esci dalle sale la sera e vorrei che tu tenessi conto del denaro che spendi. Ecco, tieni questo quadernetto. La situazione richiede a questo punto che Sally, o piuttosto Sara, e infatti quale giovinetta di un certo rango arriverebbe all'età di 16 anni senza modificare il più possibile il proprio nome? Debba essere l'amica intima e la confidente di sua sorella. È curioso notare, comunque, che lei non insistette perché Catherine le scrivesse a ogni giro di posta, né le fece promettere di descriverle nei minimi particolari ogni nuova conoscenza e di riferirle qualsiasi conversazione interessante che si tenesse a Bath. In effetti, tutto quello che riguardava questo importante viaggio fu vissuto dai Morland con un grado di moderazione e di compostezza che parrebbe adattarsi meglio ai sentimenti comuni della vita di ogni giorno, piuttosto che alle sofisticate apprensioni, alle tenere emozioni che dovrebbe suscitare la prima separazione di un'eroina dalla sua famiglia. Il padre non le aprì un conto presso il suo banchiere e neppure le consegnò un assegno di 100 sterline, e mise solo in mano 10 guinee, promettendogliene altre quando ne avesse avuto bisogno. Sotto questi auspici poco promettenti si separarono e cominciò il viaggio, che si svolse con calma adeguata e monotona sicurezza. Né briganti né tempeste li favorirono, e nemmeno ebbero la fortuna di ribaltare la carrozza in modo da incontrare l'eroe. Niente li turbò, tranne il timore della signora Allen di aver lasciato i suoi zoccoletti in una delle locande, timore che, per fortuna, si dimostrò infondato. Arrivarono a Bath. Catherine non stava nella pelle dalla gioia, guardava di qui e di là ovunque, man mano che percorrevano i bei dintorni di Bath e arrivati in città, le strade che li portavano all'albergo. Era venuta per essere felice e già si sentiva felice. Presto si sistemarono comodamente in un alloggio a Pulteney Street. È opportuno a questo punto fornire una breve descrizione della signora Allen, così che la lettrice possa giudicare da sola in che misura le sue azioni daranno in seguito un contributo determinante al dramma qui raccontato e quale sarà il suo ruolo nel ridurre la povera Catherine nella condizione più disperata e disgraziata di cui è capace un ultimo volume. se con la sua imprudenza, la sua volgarità o la gelosia, se intercettando le sue lettere o rovinando la sua reputazione o buttandola fuori di casa. La signora Allen apparteneva a quella classe numerosa di donne che, quando le si frequenta, non riescono a suscitare altra emozione che la sorpresa per il fatto che vi sia stato un uomo al mondo cui abbiano potuto piacere abbastanza da farsi sposare. Non era bella, né intelligente, né colta e nemmeno affascinante. Gli unici motivi possibili per il fatto che fosse stata scelta da un uomo assennato e intelligente come il signor Allen erano la sua aria da gentildonna e un gran bel carattere placido e pigro e una buona dose di frivolezza. In un certo senso era perfettamente adatta a introdurre una giovinetta in società, poiché amava lei stessa andare dappertutto e vedere tutto, proprio come una giovinetta. Aveva la passione dei vestiti, la sua gioia maggiore era l'innocente piacere di essere elegante, e la nostra eroina non poté compiere la sua entrée se non dopo 3 o 4 giorni passati a imparare tutto sulle ultime novità, mentre la sua chaperon si forniva di un vestito all'ultima moda. Anche Catherine fece degli acquisti e quando ebbero assolto a tutti questi impegni, venne l'importante serata che doveva introdurla nelle upper rooms. I suoi capelli furono tagliati e acconciati dalle mani più esperte, fu vestita con cura e sia la signora Allen che la sua cameriera dichiararono che era perfetta. Così incoraggiata, Catherine sperava almeno di passare tra la folla senza essere criticata. In quanto all'ammirazione, era sempre più che gradita quando arrivava, ma lei non ci faceva affidamento. La signora Allen impiegò tanto tempo a vestirsi che fecero il loro ingresso nella sala da ballo piuttosto tardi. Si era nel pieno della stagione. La sala era affollata e le due signore si fecero largo come poterono. In quanto a signora Allen si rifugiò immediatamente nella sala da gioco e le lasciò a godersi da sole quella folla scatenata. Più preoccupata dell'incolumità del suo vestito nuovo che di quella della sua protetta, la signora Allen si fece largo attraverso la ressa di uomini che si trovavano vicino alla porta, con tanta rapidità quanta ne permetteva la necessaria cautela. Catherine, comunque, le si tenne ben vicina e allacciò fermamente il braccio a quello dell'amica in modo da non essere separate dalle spinte della gente che provava a farsi avanti. Con estrema sorpresa, però, si accorse che procedere lungo la sala non significava per nulla liberarsi dalla folla. Pareva piuttosto che questa aumentasse man mano che andavano avanti. E mentre aveva immaginato che una volta superata la porta avrebbero potuto facilmente trovare dei posti e osservare le danze a proprio comodo, le cose stavano molto diversamente. E anche se con diligenza instancabile guadagnavano i palchi della sala, la loro situazione era esattamente la stessa. Non vedevano niente delle coppie che ballavano, se non le piume di alcune signore. Continuarono ad avanzare. Potevano ancora sperare in qualcosa di meglio, ed esercitando costantemente la forza e l'abilità, si ritrovarono infine nel corridoio dietro i sedili più alti. Qui c'era un po' meno folla e di qui la signorina Moland aveva una visuale completa di tutta la gente sotto di sé e di tutti i pericoli che aveva corso attraversandola. Era una vista splendida e lei, per la prima volta quella sera, incominciò a sentire che si trovava a un ballo, desiderava danzare, ma non conosceva nessuno. In questa situazione la signora Allen fece tutto quello che poteva e cioè disse ogni tanto con la massima placidità: «Oh, come vorrei che potessi danzare, mia cara! Come vorrei che trovassi un cavaliere!» Per un po' la sua giovane amica si sentì riconoscente nei suoi confronti per questi auspici, ma essi vennero ripetuti così spesso e si dimostrarono così totalmente inefficaci che Catherine alla fine se ne stancò e smise di ringraziarla. Non poterono comunque godere a lungo del riposo offerto loro dal posto privilegiato che avevano conquistato con tanta fatica. Poco dopo tutti si misero in movimento per il tè e anche loro dovettero farsi largo verso l'uscita. Catherine incominciò a sentire un po' di disappunto. Era stanca di essere continuamente spinta da gente i cui visi in genere non avevano niente di interessante e che le era così totalmente sconosciuta da non poter neppure alleviare la noia del trovarsi così immobilizzata scambiando una parola con qualcuno dei suoi compagni di prigionia. E quando finalmente arrivarono alla sala del tè, sentì ancora di più l'imbarazzo di non avere nessun gruppo al quale unirsi, nessuna conoscenza da esibire, nessun cavaliere che si occupasse di loro. Il signor Allen non si vedeva da nessuna parte e dopo essersi guardate intorno inutilmente, cercando una posizione più conveniente, furono costrette a sedersi all'estremità di un tavolo già occupato da un gruppo numeroso, senza avere niente a che fare e nessuno con cui parlare se non l'una con l'altra. La signora Allen, non appena si furono sedute, si rallegrò con se stessa per aver evitato danni al suo vestito. Oh, sarebbe stato davvero terribile se me lo fossi strappato, disse. Non è vero? È una mussola così delicata. Per conto mio non ho visto niente di più bello in tutta la sala, te lo assicuro. Come ci si sente a disagio, sussurrò Catherine, a non conoscere nessuno. Eh sì, mia cara, replicò la signora Allen con perfetta serenità. È davvero, davvero molto spiacevole. Che possiamo fare? Sembra che le signore a questo tavolo e i loro cavalieri si chiedano cosa siamo venute a fare qui. Sembra quasi che vogliamo imporre la nostra presenza nel loro gruppo. Oh sì, è proprio vero, è molto sgradevole. Vorrei tanto avere un ampio giro di conoscenze. Oh, io vorrei che ne avessimo almeno una. Sarebbe qualcuno al quale unirci? Verissimo, mia cara. Se non conoscessimo qualcuno lo raggiungeremmo immediatamente. Gli Skinner erano qui l'anno scorso. Oh, se ci fossero anche stasera. Non sarebbe meglio se ce ne andassimo. Non hanno neppure apparecchiato per noi. Oh, è proprio vero. Non ci sono più tazze. Com'è irritante. Ma credo che faremmo meglio a starcene sedute tranquille. Ci si scompiglia così tanto in una folla simile. In che stato è la mia conciatura, mia cara? Qualcuno mi ha dato una spinta che temo che l'abbia rovinata. No, davvero sta benissimo. Ma cara signora Allen, siete sicura che non ci sia nessuno che conoscete in tutta questa moltitudine di gente? Oh, qualcuno dovrete pur conoscere. Ti giuro di no. Lo vorrei tanto, vorrei con tutto il cuore avere un ampio giro di conoscenze e allora potrei procurarti un cavaliere, sarei così contenta che tu ballassi. Ma guarda là, che strana signora, che assurdo vestito indossa. Oh, com'è fuori moda. Guardalo, guardalo dietro. Dopo un po' ricevettero l'offerta di un tè da parte di uno dei loro vicini. L'accettarono con gratitudine e questo portò a una superficiale conversazione con chi aveva avanzato l'offerta, e questa fu l'unica volta in cui qualcuno parlò con loro in tutta la serata, finché furono rintracciate dal signor Allen, che le raggiunse quando il ballo fu finito. Bene, signorina Morland, disse subito, spero che il ballo sia stato di vostro gradimento. Oh, mi è piaciuto molto, replicò lei, cercando inutilmente di nascondere un ampio sbadiglio. Oh, avrei tanto voluto che Catherine ballasse, disse la moglie. Peccato che non abbia potuto procurarle un cavaliere. Le dicevo che sarei stata proprio contenta se gli Skinner fossero stati qui quest'inverno, invece di quello passato. O se fossero venuti i Perry, come avevano promesso una volta. Avrebbe potuto danzare con George Perry. Come mi dispiace che non abbia avuto un cavaliere. Beh, andrà meglio un'altra sera, fu la consolazione offerta dal signor Allen. Quando le danze finirono, la gente cominciò ad andarsene, lasciando abbastanza spazio perché chi rimaneva potesse aggirarsi per la sala con un certo comodo, e questo dovrebbe essere il momento in cui un'eroina che non abbia ricoperto un ruolo di particolare rilievo negli avvenimenti della serata venga notata e ammirata. Ogni 5 minuti, man mano che la folla diminuiva, si aprivano maggiori prospettive alla sua avvenenza. Molti giovani che prima non le erano neppure passati vicino ora la vedevano. Nessuno però trasalì con meraviglia estatica nel cogliere la vista di lei. Nessun bisbiglio di ansiosa curiosità percorse la sala e nessuno la definì una dea. Eppure Catherine era in gran forma e se l'avessero vista solo 3 anni prima ora l'avrebbero definita straordinariamente bella. In effetti qualcuno la notò e con una certa ammirazione. Infatti poté sentire lei stessa due signori che la giudicavano una bella ragazza. Queste parole ebbero l'effetto dovuto. Immediatamente pensò che la serata era stata più piacevole di quanto le fosse sembrato prima. La sua umile vanità fu accontentata e si sentì più grata ai due giovani per questa semplice lode di quanto sarebbe stata un'eroina di prima classe per 15 sonetti che cantassero il suo fascino. E se ne tornò al suo posto, ben disposta verso tutti e perfettamente soddisfatta della parte di interesse suscitata in pubblico.